Very interesting. This, Your Majesty, is Rupert, our young editor. How do you do, Rupert? How do you do? Sit down. And what's that you're reading? Karl Marx. Surely you're not a communist. Do I have to be a communist to read Karl Marx? Rupert. That's a valid answer. Well, if you're not a communist, what are you? Nothing. Nothing? I dislike all forms of government. But somebody must rule. And I don't like the word rule. Well, if we don't like the word rule, let's call it leadership. Leadership in government is political power, and political power is an official form of antagonizing the people. What magazine did you say he edits? Radio Bomba. This is Radio Bomba. Quasi di solo pane viveva l'operaio del sistema industriale milanese del 1898. Come quasi di solo pane, vivevano il contadino del mezzogiorno e l'artigiano del centro Italia. Fu per questo che, quando il prezzo del pane salì fino a raddoppiare, l'operaio, il contadino e l'artigiano si trovarono uniti contro quell'elite che concedeva la partecipazione politica e sociale solo a chi non doveva certo preoccuparsi dei rincari. Durante il mese di aprile, notizie provenienti da ogni parte d'Italia raccontavano di proteste, manifestazioni, arresti e repressioni, perfino di proclamati stati di assedio. Il 6 maggio 1898 arrivò anche la volta di Milano. Cominciarono gli operai della Pirelli, che anche prima degli aumenti dei prezzi riuscivano a stento a portare un piatto in tavola, a gridare per la strada le colpe del governo, seguiti poi da tanti altri lavoratori e cittadini dei quartieri popolari. Già tra il 6 e il 7 maggio si verificarono le prime sassaiole e le prime sparatorie, i primi corpi rimasero sul terreno. Mentre i manifestanti di quella che prese il nome di Rivolta del Pane si barricavano nelle strade e in alcuni edifici per reprimere la rivolta, fu chiamata nelle strade e fu un militare di un pugno di ferro, Fiorenzo Bava Beccaris. Forte della carta bianca concessagli da Roma e dalle migliaia di soldati posti ai suoi ordini, il generale ordinò di prendere a cannonate la barriera e la folla. Il 9 maggio, l'uomo che sarebbe passato alla storia come il macellaio di Milano proclamò che la rivolta era sedata. Non abbiamo un numero ufficiale di quante persone abbiano perso la vita durante la rivolta di Milano. Sicuramente parecchie decine, forse alcune centinaia. Ma non abbiamo neanche il numero di quanti, milioni e milioni, in quegli anni non riuscivano a vivere neppure di solo pane. Cronache ribelli, almanacco di utopie reali, identità indelebile e rinnovata memoria. Tutto questo su Fuoco alle Polveri, numero 93. Buonasera 93. A tutti e tutte. Numero 93. Eccoci qua. Ci avviciniamo a quota 100. Potrebbe essere l'ora di andare in pensione. Potrebbe essere l'ora o di fare un festone. O di fare un festone. Un festone di pensionamento. Però non è il momento di pensare. E l'orologio d'oro ce lo regala. Ah sì, perché per la pensione si regala. Fai che? Per contare il tempo dorato che ti rimane. Contare esatto, gli minuti dorati che ti rimane. Per rivenderlo al ricettatore. Da uomo libero. E comprarsi i libri. Meglio. Allora abbiamo un buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Buongiorno, a tutti. Buon pomeriggio a tutti. Sole tutte. È uscito. Buongiorno, anzi, buon pomeriggio Bricco, buon pomeriggio Lago. Oh. E il buon Tuco. Regna in questa location. Incredibile monte. Incredibilmente. Mai neanche un problema qui. Tana del Wombat. Anche mai una gioia. Ma una gioia, no, le gioie non ci è sono, vero, le gioie ci sono. Tra l'altro, a breve ci sarà una grandissima gioia. Che seguiamo ormai dalla sua prima edizione. Che è il Festival di Letteratura Sociale che si tiene in Polveriera, sempre nel mese di maggio. Questa volta le date sono 16, 17, 18 e 19 maggio, quindi si avvicina. È settimana prossima, da giovedì a domenica della settimana prossima. Il programma è bello pieno, bello interessante, come tutti gli anni. E, allora, leggiamo intanto le prime due giornate. Si blocca Bricco, vado avanti per la mia strada. Allora, partiamo giovedì 16, si partirà alle 15.30, c'è l'apertura del festival con tutti i primi le prime presentazioni. Infatti alle 16.30 le piscine terminali di Enrico Gabrielli. Termali penso. Terminali. Le piscine terminali di Enrico Gabrielli e Capati Edikit 2017. Alle 18 invece l'educazione incidentale di Colin Ward col traduttore Francesco Codello, edito da Eleutera del 2018. Alle 19.30, sempre lo stesso giorno, La buona educazione degli oppressi, piccola storia di decoro di Walt Bukowski, edizioni Allegre 2019. Alle ore 21, Consenso, roba da froci, radio presentazione a cura della Queer Parade, che noi conosciamo bene, fin dalle prime puntate, tra l'altro fu uno dei primi ospiti. Alle 21.30 invece Unfinished Niche, spettacolo teatrale di Underworld Theater. Questa è la prima giornata giovedì 16, rimanete con noi perché vi racconteremo anche le altre tre giornate, ma non solo. Oggi parliamo dell'ordinanza delle zone rosse a Firenze, e che poi non riguarda solo Firenze, ma noi per ora l'ordinanza riguarda Firenze, però appunto cercheremo di scoprire alcuni dettagli. Se non erro ci sono state cose simili anche a Torino. No, a Bologna. Bologna, volevo dire. Esatto, comunque. Quindi chiameremo, insomma, ci faremo dare un aiuto da chi ne sa, no? Di diritto. Sì. Anche perché c'è stato un corteo. C'è stato un corteo con anche un presidio, si può dire, poi sotto la loggia del Pesce dei Ciompi, che poi non è stato proprio un presidio, bensì vi erano due giuristi, anzi tre, che hanno spiegato nel dettaglio che cosa comporta questa ordinanza, uno dei quali lo chiameremo fra poco. A minuti, probabilmente dopo un pezzo che è il nostro grande Drago. Certo, un pezzaccio dei Malclango. Oh, Malclango! Sono stati gli apertori, i primi a suonare alla festa Wombat. Esatto, alla poi festa parleremo del Wombat, anche un po' della festa Wombat. Siamo sicuri che c'eravate tutti alla festa sabato, è andato molto bene. Tu non c'eri, tu? Ma certo c'ero. Ah, sì, no, c'ero. E c'era un sacco di gente, quindi ringraziamo tutti per essere venuti a trovarci. È stato veramente un piacere. Non so se avete seguito quella piccola diretta pazza che abbiamo fatto. Io me la sono riascoltata, una follia totale, perché c'è la registrazione, si mette o non si mette nel container? Ma io forse non la metterei. Va bene, poi me la ascolto anch'io e valuterò. Mettiamo a votazione. Va bene. Andiamo col pezzo. Dai, pezzaccio Malclango con la maschera da Gorilla Nimbus. Questa volta le fortezze volanti erano le massicce e oscure nuvole. Sganciavano ad ondate successive migliaia di tonnellate di pioggia. We'll be right back. Don't you know I'm loco? Avete sentito il Malclango, il famosissima band romana che spero diventeranno sempre più famosi. Produce rumore vestiti da scimmione. Wow. Scimmioni. Tanto rumore per nulla. Tanto rumore per nulla. Tanto rumore per tanto invece. Perché erano veramente veramente validi. Molto bene. Allora, adesso ci prepariamo con i nostri potenti mezzi tecnici a fare le nostre solite chiamate, e comunque rispetto al passato siamo migliorati tantissimo. Decisamente. Chiameremo Giovanni, che è un giurista, che ci racconterà, ci darà un po' di dettagli riguardo all'ordinanza della prefetta Laura Lega, che è entrata in vigore già un mese fa, era il 10 di aprile, con una durata di 3 mesi, quindi un po' un banco di prova per la città, per vedere un po' come funziona. Ma non solo, anche forse italiano come banco di prova. Sì, no, nel senso che Firenze è un po' preso come banco di prova insieme ad altre città. Chiamata in diretta. Pronto? Sì, buonasera Giovanni, siamo su Fuoco alle Polveri, Radio Wombat, benvenuto. Buonasera, sì. Stavamo parlando appunto dell'ordinanza emessa dalla prefettura nel mese di aprile. Volevamo un po' di dettagli da parte di un giurista. Intanto, com'è che siamo arrivati a questa ordinanza? Cioè, se ci sono stati alcuni decreti in passato che hanno, diciamo, preparato il campo a questo nuovo tipo di normative. Sì, sicuramente l'ordinanza del prefetto Lega è la conclusione di un iter che trova le sue radici in altri provvedimenti legislativi, peraltro emanati da governi di alterne indicazioni politiche. Abbiamo il decreto Minniti, che è del 2017, che per primo ha individuato la figura del sindaco e comunque ha stabilito una dislocazione su base territoriale della gestione della sicurezza pubblica. Il decreto Minniti nel 2017 amplia per la prima volta i poteri del sindaco in materia di ordinanze contingibili e urgenti, attribuendone proprio i compiti al sindaco in materia di decoro e sicurezza urbana. Nello stesso decreto Minniti ricordiamo che è stata per la prima volta previsto e istituito il cosiddetto DASPO urbano, cioè la possibilità di allontanare tutta una serie di soggetti che pongano in essere delle condotte incompatibili con le funzioni nei luoghi di natura ferroviaria, aeroportuale e altri indicati, pena appunto l'allontanamento e le sanzioni. A questo è poi susseguito il decreto Salvini, che sostanzialmente ha confermato esattamente l'impianto del decreto Minniti, si è semplicemente premurato di allungare i tempi di divieto di rientro in queste zone dai quali si viene allontanato in seguito al cosiddetto task urbano, portandolo a 12 e 24 mesi, e si è stabilito anche delle sanzioni penali in caso di violazioni di questo ordine di allontanamento. In questo quadro qui, che quindi è un quadro nel quale si prevede, ripeto, un potere dei sindaci di individuare determinate zone della città nelle quali si può e può il questore ordinare l'allontanamento dei soggetti che pongano dei comportamenti ritenuti non consoni al ruolo e alla funzione di quegli stessi luoghi, si inserisce l'ordinanza del prefetto di Firenze. Il prefetto di Firenze ha, sulla scorta di una valutazione, di una necessità di garantire e mantenere una situazione di sicurezza che nella stessa ordinanza la si individua comunque già sufficientemente positiva, ritiene tuttavia necessario attribuire compiti speciali e poteri speciali di polizia alle forze di polizia. E quindi con questa ordinanza si prevedono l'indicazione di alcune zone di Firenze che sono individuate peraltro in maniera anche molto generica, si parla della insomma, Fortezza d'Abbasso, una serie di vie, voi vedete Fortezza d'Abbasso, il Parco delle Lascine, Via dei Servi, Piazza dei Ciompi, Via dell'Ariento, Via Sant'Antonino, Borgo San Lorenzo, Piazza del Mercato Centrale, Via Nazionale, Largo Fratello Linari, Piazza della Stazione, Via Fanicali, Via Guelfa, Via De Benci, Pietro Arrigoni, Annigoni, Via Pandolfini e Piazza San Jacopino. Esattamente. In queste zone viene posto il divieto di stazionare a determinati soggetti, che sarebbero in questo caso, in linea generale, sempre coloro che pongono in essere comportamenti che possono essere considerati non consoni rispetto ai luoghi. Tuttavia questa indicazione di natura generale in riferimento a una condotta che non dovrebbe tenere un soggetto, in realtà poi viene nell'ordinanza con una finzione giuridica, fictio iuris si dice, si dicono quelli che parlano bene, la si assimila alla condizione di essere denunciati, cioè si dice vengono allontanati, non possono stazionare coloro che hanno un comportamento non consono, tali sono considerati, quindi è una presunzione, sono considerati coloro che hanno riportato una denuncia, si badi bene, una denuncia, e non una condanna con una sentenza giudiziaria, ma una mera denuncia proveniente dalle forze di polizia, e quindi qui abbiamo già un primo discrimine tra una denuncia che avviene da un privato e una da una forza di polizia per taluni tipi di reati, in particolare concernenti gli stupefacenti, e poi dei reati minori come le percosse, le lesioni, il danneggiamento e poi la violazione di norme in materia di commercio. Ecco, si sta parlando appunto degli articoli 73 e 74, degli articoli, esatto, 581, 582, 588 e infine appunto sì, appunto come dicevi, riguardo al commercio di... Com'è? Il 588 è la rissa. Sì, quindi per costo, legioni e rischio. E il 635. Ecco, esatto. Questo specifica l'ordinanza che è solo per le denunce avvenute nel Comune di Firenze, giusto? Per reati passati, esatto, commessi nel Comune di Firenze. Allora, anche questa è una peculiarità. Ovviamente qui ci sono una serie di profili di legittimità, a mio avviso, palesi e conclamati. In primo luogo, il prefetto utilizza uno strumento che queste ordinanze... che prefettizie che limitano diritti dei cittadini che potrebbero essere utilizzati e devono essere utilizzati ai sensi del potere conferito dall'articolo 2 del testo unico di legge pubblica sicurezza solo in casi di grave necessità e urgenza, quindi di casi straordinari nei quali non è possibile intervenire con una legislazione ordinaria di fronte a fenomeni, io penso a un cataclisma, a un fenomeno naturale, a un terremoto, nei quali non è possibile aspettare l'ordinario tempo di legislazione e quindi si interviene per porre in essere delle misure straordinarie. Il prefetto utilizza questi poteri straordinari per regolare una situazione ordinaria, perché è evidente che a Firenze non c'è nessuna emergenza. Ecco, fra l'altro loro specificano per attuare una prevenzione nei confronti del compimento di vari reati. Prego, no, non vi sento più, scusate. Sì, appunto, l'ordinanza specifica che queste qui sono misure preventive. Pronto? Mi sentite? Mi senti? Pronto? Pronto? Giovanni? Pronto? Giovanni, mi senti? Ci sono dei problemi, non riusciamo, non riesce a sentirci. Pronto? Forse abbiamo dei problemi di collegamento. Proviamo a richiamare. E quindi questo, sì, si può trovare questa ordinanza sul sito della prefettura, c'è una finestra delle ordinanze, una delle più in cima. Trovate tantissimi articoli, ne è stato scritto tanto, e qui accanto a me abbiamo anche una persona che è direttamente coinvolta. Pronto? In questa cosa. Sì, pronto? Eccoci, ora ci sentiamo. Bene, ci sentiamo. No, appunto, dicevo che tutto questo viene giustificato come un atto preventivo verso dei possibili reati, no? Esatto. L'ordinanza ha una funzione meramente preventiva, cioè è volta a prevenire eventuali situazioni, come dire, pericolose. Tuttavia, questa pericolosità, che normalmente nel nostro ordinamento viene desunta da comportamenti concreti attuali nel soggetto, invece la si fa derivare non solo non da un comportamento concreto e attuale del soggetto, perché niente si contesta rispetto al fatto che il soggetto stia facendo in quel momento qualcosa di veramente pericoloso, ma la si... Pronto? Eccoci, ci senti? Ora meglio. Ok, dai, speriamo che regga. Ho sempre uno sgradevole eco che non mi fa capire le cose, però... Dunque, ci dicevi, questo, diciamo, poi i giuristi, in particolare i penalisti, si sono mobilitati per fronteggiare questa ordinanza. Per quale motivo? Qual è esattamente Pronto? Il motivo? Cosa vuol dire attuare un'ordinanza su delle persone che sono denunciate e non giudicate? Esattamente, forse è caduta la linea, stavo dicendo questo. La denuncia non è un fatto, diciamo che le misure di prevenzione del nostro ordinamento, tutte le misure che vengono poste in essere, ragazzi, decreti attuali dei soggetti, in ogni caso, a prescindere da tutto, si contesta un fatto, un comportamento concreto e lo si individua come indice di pericolosità. La denuncia è soltanto una comunicazione di un fatto di reato avvenuto in passato all'autorità giudiziaria. Non ha alcun vaglio giurisdizionale, quindi non c'è un giudice che ha ancora preso delle decisioni. Il denunciato è bene assolta. Può essere una persona che in seguito a un'indagine, scaturita da quella denuncia, viene addirittura archiviato. E quindi è evidente che qui siamo al di fuori dei canoni della costituzionalità, perché abbiamo una presunzione di innocenza prevista dall'articolo 27 della Costituzione, ma abbiamo anche un articolo 16 e un articolo 13 della Costituzione che stabiliscono la inviolabilità dei diritti di libertà personale e di circolazione, che possono essere limitati solo in seguito a un vaglio giurisdizionale. In questo caso si fa ritenere la pericolosità e quindi si allontanano soggetti che hanno una mera denuncia e che quindi vengono considerati pericolosi per un fatto rispetto al quale non vi è stato ancora un vaglio di un giudice, e al contempo lo stesso provvedimento del prefetto di allontanamento non è soggetto lui stesso a un ulteriore vaglio giurisdizionale di un giudice che ne valuta la legittimità. Quindi si limitano le libertà fondamentali dei cittadini costituzionalmente garantite in via amministrativa, senza alcun intervento di un giudice, e qui siamo veramente al di fuori dei canoni, a mio avviso, costituzionali. Come viene letta dai giuristi questa forzatura sulla Costituzione? È una forzatura allarmante. Devo dire che rispetto a questa ordinanza tutti gli operatori del diritto si sono sollevati. Abbiamo avuto la Camera Penale, quindi l'associazione rappresentativa di tutti i penalisti, che ha fatto un comunicato molto duro e allarmante. C'è stato addirittura il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, quindi un organo istituzionale che rappresenta e governa tutti gli avvocati, che all'unanimità ha preso una posizione forte di critica dura a questa ordinanza. Abbiamo addirittura visto delle prese di posizione altrettanto forti e allarmate da parte dei magistrati, in particolare di Magistratura Democratica. Quindi tutti coloro che operano nel diritto si sollevano un grande problema di costituzionalità e un allarme per i diritti dei cittadini. E come, in che modo sono coinvolte le amministrazioni, l'amministrazione fiorentina nello specifico del comune? Dunque, per quanto riguarda l'ordinanza prefettizia, in realtà non c'è un ruolo diretto, nel senso che è un'ordinanza del prefetto che lui stesso ha stabilito delle zone, cosiddette zone rosse. Però dobbiamo rilevare che nello stesso provvedimento del prefetto si indica nella parte motivazionale il fatto che questa misura era stata anticipata, aveva avuto l'assenso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. In quel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica sono rappresentati non solo i vertici delle forze di polizia, quindi carabinieri, polizia, guardia di finanza, ma anche il sindaco di Firenze. Quindi se ne desume che il sindaco in quella sede, o chi per lui se lo rappresentava in quella sede, dovrebbe aver espresso anch'esso un parere positivo. Diverso e più forte invece pregnante il ruolo dei sindaci in riferimento ai cosiddetti DASP urbani, perché il regolamento di polizia urbana e quindi sostanzialmente l'amministrazione comunale dei vari comuni ha la possibilità di indicare alcune zone che ritiene dover essere meritevoli di maggior tutela, mercati, di fiere o ad alto afflusso turistico, dove stabilire quei famosi principi divieto di porre in essere comportamenti incompatibili con la vocazione delle aree e quindi di sottoporre coloro che hanno un comportamento non consono al cosiddetto DASP urbano. Ecco, un'ultima due cose ti volevo chiedere, uno intanto se succede solo a Firenze oppure anche in altre città. Allora, per quanto riguarda il DASP urbano è normativa nazionale, quindi verrà applicata su tutto il paese. Ovviamente si capisce che, essendo delegato a ogni sindaco la possibilità di individuare alcune zone meritevoli di tutela rispetto ad altre, avremo una politica securitaria che punterà a macchia di leopardo, per cui in ogni città si farà delle misure calzate in base alle proprie esigenze di gestione urbana. Dall'altra parte invece l'ordinanza del prefetto Lega è effettivamente una novità, perché penso che Bologna abbia poi seguito l'esempio di Firenze, ma sono veramente forse due o al massimo tre le città che hanno tipo, e quindi, come dire, Firenze è sembra un punto di avanzamento rispetto al panorama nazionale in termini di misure, a mio avviso, eccessivamente fortemente restrittive di libertà costituzionale. Ma questo succede per una motivazione politica oppure perché le caratteristiche della città sono atte a sperimentare questo tipo di ordinanze? Questa è una valutazione, diciamo, politica. Diciamo che ci possono essere varie motivazioni. Ricordiamoci che il prefetto è il rappresentante del governo sul territorio. In primo luogo. A mio avviso, e penso forse l'avviso di tutti gli ascoltatori di questo programma, non sembra che ci siano elementi di particolare allarme e urgenza che impongano alla città di Firenze di porre in essere queste misure. Quindi probabilmente sta facendo un avanzamento in una chiave, come dire, repressiva preventiva, che vede Firenze come città eletta per questo tipo di verifica e di sperimentazione. L'ultima cosa che volevo chiederti è, appunto, nell'ordinanza, dopo le disposizioni ci sono l'ordine dell'allontanamento dei trasgressori e le avvertenze che eventuali violazioni della presente ordinanza potranno rilevare anche sotto il profilo della configurazione di illeciti di natura penale. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che sia chiaro che la violazione dell'ordinanza, e non la violazione dell'ordine di allontanamento, ma la mera violazione dell'ordinanza implica reato. Cioè l'ordinanza vieta di stazionare in determinati luoghi. Se io sono un denunciato per il reato di percosse, che è un reato, vuol dire aver spintonato un'altra persona, questo per capire quale sia l'ordine di gravità che viene individuato nei tipi di reati selezionati. Se io sono denunciato per il reato di percosse e mi trovo in piazza alle cascine o al mercato, piazza del mercato, diciamo alle cascine, vengo individuato, vengo identificato, vengo, viene verificato che sono un denunciato, quindi vengo allontanato, ma l'allontanamento automaticamente scatta il reato, perché il 650 indicato nell'ordinanza, il 650 del codice penale, è proprio il reato di violazione dell'ordine dell'autorità, dato per motivi di sicurezza. L'articolo 17 del TULPS è lo stesso, la violazione delle ordinanze prefettizie, quindi sostanzialmente contemporaneamente io avrò il provvedimento amministrativo di allontanamento e automaticamente la denuncia per uno dei due reati, lo 650 o l'articolo 17. Quindi sostanzialmente è una norma, come dire, fortemente repressiva, perché non solo limita le libertà costituzionali, ma automaticamente ha un effetto criminogeno, sostanzialmente tende a criminalizzare con un procedimento penale e poi il rischio di una condanna penale e quindi poi tutto ciò che ne consegue. Ecco, è stato fatto un ricorso al TAR e pensi possa avere delle possibilità di vittoria? Ovviamente nessuno si può sostituire ai giudici, credo che gli elementi di diritto per attaccare e scardinare questa ordinanza prefettizia siano molti, molteplici, e che quindi speriamo veramente che vengano riconosciuti dal Tribunale amministrativo e venga dichiarata legittimità di questa ordinanza. Bene, grazie mille. Grazie. Io non ho nient'altro da chiedere, non so se persone che sono qui in regia hanno delle domande. No, bene. Grazie mille. Dunque, grazie mille e a presto. Buon proseguimento. Grazie mille. Ciao. Ciao. Bene, dunque, direi che ha fatto un gran bel spiegone della situazione, che non è per niente piacevole, non è per niente positiva. Una cosa mi colpì l'altro giorno in piazza Ciompi, che disse, a un certo punto ci fu la cosa che la motivazione per cui era stata fatta questa ordinanza era per aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini, non me lo sono sognato. Sì, può darsi, ma guarda un po', se andando a leggerla questa ordinanza, sono tre pagine, si capisce che viene giustificata in un certo senso, però veramente in un modo assurdo. Comunque, parlavamo appunto del ricorso al TAR e abbiamo qua una persona che forse si può dire è la persona che ha presentato il ricorso al TAR attraverso naturalmente il suo avvocato. Ci puoi raccontare la tua storia, quindi un po' da dove inizia, voglio dire, se fai ricorso è perché evidentemente hai delle denunce a tuo carico e che quindi queste comportano. Sì, diciamo che... Sei una vittima. Sì, sono una vittima dell'ordinanza, diciamo che anche se quando questa notizia del ricorso al TAR è uscita sui giornali sono stato individuato come giovane laureato in filosofia, ora mi fa onore questo di essere definito giovane, però non sono così giovane nel senso che calco le strade di questa città da una ventina d'anni, quindi insomma in questi vent'anni qualche guaio è successo. Ora recentemente ho un procedimento in corso che mi rende oggetto del provvedimento, ma anche senza questi ultimi guai ho una vecchia denuncia risalente al 99, quindi insomma si parla di vent'anni fa. Denuncia fra l'altro che non ha avuto alcun esito, una denuncia dove il processo è stato archiviato, quindi i magistrati competenti hanno visto il materiale presentato alla polizia e hanno detto no, vabbè, qui non c'è niente, non facciamo neanche il processo, non ci fu neanche l'udienza preliminare. Allora, per questa cosa accaduta vent'anni fa, io divento un criminale nel momento in cui prendo un caffè sotto casa, perché ahimè la sfiga vuole anche che abiti nei pressi di una delle zone indicate dal provvedimento, quindi se esco di casa devo immediatamente andare da una parte e non dall'altra, perché se vado da non puoi fermare, non ti puoi fermare, puoi prendere un caffè ma camminando probabilmente. Sì, cioè me lo devo prendere in corsa al volo, devo fissare col barista e dirgli guarda, ti devi far trovare il caffè in mano, sì, tipo, per prendere un autobus devi dalla finestra controllare quando arriva l'autobus, esatto, devo prendere il tempo esatto, perché altrimenti mi fregano. Come ci si sente in una situazione del genere? Come ci si sente? Ci si sente al centro del mirino. Io comunque frequento, oltre le strade, gli ambienti politici dal basso da tanti anni. Tante volte ho lottato anche per questioni che magari non mi riguardavano direttamente, ma sentivo che a monte riguardavano anche me. Ecco, in questo caso invece, quando sono stato l'altro giorno in Piazza dei Ciompi, anche per l'iniziativa, credo del 29, insomma subito prima di Pasqua, 26 quando era, sono state già fatte diverse iniziative insomma su questa ordinanza, perché effettivamente è scandalosa. Mi ha fatto piacere non sentirmi solo, ecco, questo perché, come già diceva l'avvocato, questa è un'ordinanza fortemente discriminatoria e criminalizzante. La criminalizzazione è una forma di stigma, e lo stigma crea isolamento e solitudine in certi soggetti. È un dispositivo di questo tipo specifico per tenere le persone divise. Esatto, tra l'altro questa cosa ha indignato molte persone a Firenze, e non solo, perché in Piazza dei Ciompi c'era un buon numero di ascoltatori, e comunque i giornali ne hanno parlato, e secondo me sembra che... Ma sì, infatti, insomma, ma anche la vicenda di come è andato il ricorso al TAR è significativa, nel senso che non è che è stata una mia idea. È stata un'idea di un gruppo di avvocati, sono quelli insomma che hanno messo il nome e quindi la faccia in questo ricorso, fra cui anche l'avvocato penalista che segue le mie vicissitudini, i quali mi hanno contattato e mi hanno detto: questa cosa è inaccettabile perché mina lo stato di diritto, noi siamo oggettivamente preoccupati per quello che sta succedendo e vogliamo fare qualcosa. Ora, gli avvocati mi hanno contattato, non sono certo, come dicevo anche l'altro giorno in piazza, dei rivoluzionari, o comunque non necessariamente condividono anche gli ideali che esprimiamo qua e che si esprimono in certe situazioni. Nonostante questo, sono preoccupati per la deriva, e mi verrebbe da chiamarla autoritaria, di questo tipo di misure. Perché poi anche lì spesso si parla di ritorno del fascismo. Ora bisogna anche capirsi su cosa si intende con fascismo, perché per me alla fine quello che conta è il fascismo e la sua sostanza economica. Sarò vetro in questo, però, che è l'alleanza fra padroni e lavoratori, siamo sulla stessa barca. Ecco, da questo punto di vista il fascismo c'è già abbondantemente da anni, spinto da tutte le forze politiche che attualmente siedono in Parlamento. In questo caso invece io parlerei proprio di generico autoritarismo, cioè di violazione dello stato di diritto, e quindi di stato di polizia, in cui la polizia può disporre. Ecco, un esempio che facevo è questo. Il commissariato di polizia che ha svolto la recente indagine su di me, appunto, è del mio quartiere, no? Allora, questa ordinanza gli dà un perfetto strumento per una vessazione, per una persecuzione nei miei confronti. Appunto, loro potrebbero piazzarsi lì nella sotto piazza, casa tua, sotto casa mia, aspettare che io vada da una parte o dall'altra, che mi fermi un attimo, prendo un caffè, e denunciarmi tutte le volte, rompermi le scatole tutti i giorni volendo. Potrebbero tranquillamente farlo, avrebbero gli strumenti per farlo, ed è una forma appunto di persecuzione poliziesca non mediata assolutamente dallo stato di diritto, quindi non ci sono di mezzo possibili avvocati, magistrati, cioè loro agiscono, cioè la persecuzione è già in essere nel momento in cui questi mi fermano in piazza e mi rendono la vita impossibile. Ora, per fortuna questo non sta succedendo, anche perché credo che a guardarla bene questa ordinanza riguardi prevalentemente gli indesiderati, diciamo, quindi non i bianchi, sì, istruiti come me. Vari, secondo me va a toccare diverse fasce, diverse categorie, se proprio vogliamo metterci queste categorie, in materia appunto di spaccio. E, cioè, vabbè, io mi metto nei panni del poliziotto, credo che andrà a pescare certi soggetti e non altri. Non se lo so. Il commercio di merce contraffatta, ecco, è indicativo. Siamo proprio lì, però ecco, io ci vedo anche il fine poi di andare a poter allontanare persone del movimento, tendenzialmente, che quasi tutti abbiamo una denuncia per una cosa o per l'altra, però insomma è anche un buono strumento per un'arma poi perfetta. Impedire un presidio, ad esempio, lo sgomberi facilissimo con un'ordinanza del genere, cioè un presidio in una zona rossa davvero. Certo, poi si sa che la Digos agisce sempre insomma seguendo una logica politica e non meramente giudiziaria, per cui certo aumenta ulteriormente il loro arsenale. Beh, io stesso sono stato, mentre mi rivendicavo, insomma, facevo discorsi come questi durante una delle iniziative, l'agente di polizia si è premurato di farmi una foto, che non si sa mai. Poi magari la denuncia non scatterà oggi, scatterà fra un po', quando ce ne sarà bisogno, perché appunto lì si ragiona secondo logiche differenti da quelle di mero ordine pubblico, ecco, si ragiona secondo una logica più politica. Tra l'altro mi viene da pensare se, per esempio, la storia dei banchini di Casa Pound e chi vogliamo che non vengono mai controllati, ne parliamo anche, no, la famosa firma dell'antifascismo. Sì, sì, Queste persone poi ci sono, come ci dicono le cronache dei giornali, dei denunciati, e probabilmente nell'ottica dici tu nessuno andrà a controllare loro, ma piuttosto si andrà a controllare appunto dei soggetti mirati, e loro non rientrano nel mirino. Qual è il motivo? Chissà, eh. Sì, infatti. Ma ecco, però, secondo voi, cioè, a Firenze, voglio dire, le zone scelte sono ben precise e sono delle zone, diciamo, dove c'è un progetto anche quello ben preciso da parte dell'amministrazione. Che cosa rappresenta questa? Secondo me, in realtà, il discorso è proprio legato a un discorso propagandistico, o meglio, quello sulla sicurezza percepita dai cittadini, no? Che è una cosa su cui si lavora da anni, le forze dell'ordine sono anni che... Siccome in realtà i crimini violenti sono in calo e tutto sommato, cioè, se uno va a vedere le statistiche, la situazione è sempre più tranquilla. Però i giornali, i media, i politici che fomentano il clima d'odio e di terrore fanno sentire sempre più insicura la popolazione. Allora poi vanno a mettere le pezze, o meglio, dicono alla polizia: voi non è che dovete perseguire i reati, i criminali, voi dovete fare in modo che la gente si senta più sicura, anche se non lo è, perché poi la vera sicurezza, lo sappiamo tutti, è quella sul lavoro, è quella dei diritti sociali, eccetera, eccetera. Quindi non è che... Quindi, insomma, in questo senso le zone indicate, ce n'è in particolare una che mi viene in mente, possono essere legate, per esempio, a comitati di cittadini o singoli cittadini che fingono di essere comitati, che attraverso pagine di Facebook fanno esattamente lo stesso lavoro dei media e dei politici, quindi fomentando un clima d'odio, di discriminazione e di paura, e per fare contenta questa gente, che comunque sono degli influencer, diciamo così, anche se di basso livello e riguardanti solo una piazza o un gruppo di strade. Allora, per intervenire, per dare il contentino a questa gente, magari chiama la polizia tutti i giorni, eccetera, gli fanno l'ordinanza e lui dirà: ah, vedi, hanno pensato a me. E quindi... sono anche le zone più turistificate o comunque in procinto di diventarle. A me questo fa accendere un po' una lampadina, soprattutto per quanto riguarda... Viene citato anche nell'ordinanza, cioè il fatto che in queste piazze ci sia in questi luoghi ci sia un grande flusso di turisti, e che quindi questo poi, no, è incompatibile con un determinato tipo di... Sì, determinate, certo, categorie poi di persone. La nostra città, lo sappiamo, che soprattutto certe zone sono ormai per i turisti e non per i cittadini. Esatto. Infatti, ora io su questo avevo preparato un po' un ragionamento, proprio perché la città di Firenze sta cambiando in modo velocissimo. Lo ha fatto negli ultimi anni, ma ci sono ancora alcune parti del centro che hanno da subire un determinato tipo di processo. Scusate. E in quello che mi domandavo un po' io era: si sta parlando di luoghi, va bene? Però che cos'è per noi un luogo? C'è chi lo definisce, in particolare gli antropologi, lo definisce come il prodotto di una società sufficientemente localizzata nel tempo e nello spazio. Quindi fondamentalmente un gruppo di persone che sta per un po' di tempo in uno spazio. Le caratteristiche sono quelle che un luogo deve essere: identitario, relazionale e storico, va bene, deve avere queste tre cose. Identitario, quindi caratterizzare l'identità di chi ci abita; relazionale, cioè è un posto dove si possono sviluppare determinati tipi di relazione; e storico, cioè un luogo che deve ricordare all'individuo le proprie radici storiche attraverso dei riferimenti a lui comprensibili. Naturalmente poi anche uno spazio geometrico, quindi fisico, però ecco, questo è come viene definito un luogo. Se penso a Firenze mi viene da pensare che il centro della città è sempre meno questo, perché a parte la storicità, che i monumenti sono i monumenti, li sono e li rimangono, però è sempre meno identitario, perché è sempre più omologato ai centri città di tutto il mondo, tendenzialmente. Tutto il mondo occidentale. Sempre meno relazionale, perché appunto questa ordinanza ce lo insegna: puoi transitare da un posto, non ti ci puoi fermare, ma lo dimostra anche il fatto che non ci sono più le panchine, hanno rifatto Piazza dei Ciompi e ci sono 6 posti a sedere in tutta la piazza. È una piazza dalla quale transiti, e quindi questo avvicina alla definizione esattamente contraria del luogo, cioè al non luogo, che è un termine anch'esso coniato dall'antropologia culturale, e dice esattamente il contrario, cioè posti che non sono né storici, né relazionali, né identitari. Non esistono forme pure, questo lo dicono ancora gli antropologi, E a me viene da pensare che Firenze la storicità la sta mantenendo, ma tutto il resto lo sta perdendo. È interessante il caso di Firenze, è particolarmente contraddittorio rispetto a questa definizione, però è interessante nel senso che la storia di Piazza dell'Uomo viene svuotata di senso dalla trasformazione di Piazza d'Uomo in un non luogo. Cioè la storicità stessa viene meno perché viene spettacolarizzata, ovvero viene... che è direttamente vissuto viene allontanato in una rappresentazione. Cioè, diventa una mera rappresentazione spettacolare nelle foto, nei selfie dei turisti. Esatto, infatti un po' era questo che a me faceva riflettere sul senso di questa ordinanza in una città come Firenze. È sì, un modo di prevenire tutta una serie di cose che loro chiamano degrado, però anche per spingere ancora di più la città e l'economia della città verso una forma di turismo mordi e fuggi, che non deve vedere quello che realmente è la città, quali sono i problemi della città, perché questi problemi semplicemente vengono spostati un po' più in là. Sì. Sì, manderei un pezzo forse per spezzare un attimo e poi torniamo qua. Va bene. Un pezzo Old But Gold, direi, di un gruppo che ha uno spessore politico decisamente più alto di molti dei politici che abbiamo adesso. Viva! Mr. Paul Simonon is now going to brain you with Walking in the Guns of Brixton. Yeah, ask your neighbor what that's about. Bene. Dunque, tornando alle zone rosse, che conclusioni vogliamo trarne? Ma che conclusioni vogliamo trarne? Per me è una... per noi, diciamo così, è comunque un'occasione, mi verrebbe da dire, di lotta molto prossima, di qualcosa che, insomma, ci riguarda molto molto da vicino, perché come dicevi anche te, in diversi che frequentano certi luoghi e certe situazioni si ha anche solo delle denunce, perché ricordiamolo appunto, è tutto parte da una denuncia, potrebbe essere anche qualcosa che era completamente campato in aria, eccetera eccetera. Sì. Quindi io credo che questa cosa debba essere come dire, perseguita fino in fondo, questa lotta debba andare fino in fondo. È interessante questa alleanza, diciamo così, che si crea anche con ambiti differenti dal nostro, può essere l'ambito dei giuristi, e quindi io sono anche abbastanza, facendo fiducioso, tutti i gesti scaramantici del caso, però sono abbastanza fiducioso. Più che altro mi sembra anche che questa cosa stia acquistando una rilevanza mediatica non indifferente. Se ne è parlato anche nella TV nazionale. A me è capitato di assistere a un dibattito, fra l'altro agghiacciante, dove appunto quello della Lega paragonava i denunciati ai criminali e sosteneva che i criminali non sono cittadini, quindi affermazioni gravissime. Credo fosse addirittura un esponente del governo, ora non ricordo esattamente, però stiamo parlando di affermazioni dove appunto stiamo completamente scavallando la linea della democrazia, della socialdemocrazia, e stiamo andando verso appunto derive autoritarie preoccupanti. Molto preoccupanti. Tra l'altro è stata già messa in pratica questa ordinanza, perché nel mese di aprile una persona che era alla stazione, una signora peruviana che stava aspettando l'autobus per andare a lavorare, sono stati chiesti i documenti, è stato accertato che aveva una denuncia risalente a più di un decennio prima. Certo. E è stata allontanata, quindi lei per andare a lavorare ha dovuto alzare i tacchi e andare due fermate più avanti fuori dalla zona rossa della stazione. Ecco, direi che questo è veramente un caso significativo che riassume in un solo colpo tutte le storture inerenti a questa ordinanza. E poi ripeto, la discriminazione, colpire un'onesta lavoratrice di fatto che stava semplicemente andando al lavoro, e in base a che cosa? In base al colore della pelle o comunque all'etnia appartenenza, e quindi è stata messa immediatamente in luce. E poi appunto a che pro? Per farla spostare di due fermate, e che noia dava. Si capisce anche che la ratio non c'è, cioè che no, è un'irrazionalità di fondo. Cioè, si parla di denunce avvenute a Firenze, cioè quindi se te sei di Prato e c'hai una qualsiasi, sì, va benissimo, vieni tranquillo, no, cioè, non c'è problema. È interessante notare le varie insensatezze. Ecco, io se devo fare una riflessione finale è proprio sulla logica di fondo di questa ordinanza, o meglio della non logica, della sragione totale che c'è, ma anche dal punto di vista di chi l'ha fatta, cioè di un funzionario di polizia. L'esempio, diciamo, la contraddizione proprio giuridica più profonda di questa ordinanza è il fatto che non sempre chi è denunciato, credo che questo sia stato anche detto nell'iniziativa dell'altro giorno, non sempre chi è denunciato è consapevole di esserlo. Per esempio un corriere della droga su cui si stanno facendo delle delicatissime indagini da un anno per trovare, è lì che prende l'autobus come la signora, lo ferma i poliziotti e la fa: ma lei ha una denuncia? Ah sì? Mangia la foglia e manda a monte il lavoro dei colleghi. Perfetto. Che magari erano lì da un anno. Allora, questa cosa vuol dire, secondo me, vuol dire che queste misure fatte per mera propaganda o per una spinta comunque irrazionale, come dire, è indice anche di una certa decadenza di chi, cioè una decadenza proprio antropologica, una decadenza mentale di chi gestisce il potere, ma non solo. È il segno di un'irrazionalità di fondo del mondo in cui viviamo, che segue logiche sempre più lontane dagli esseri umani e che quindi si trova sempre più avviluppata in contraddizioni insanabili, contraddizioni sulle quali noi dobbiamo, per così dire, puntare il piede il più possibile. Sì, decisamente. Va bene, io penso tu debba andare, giusto? Sì. Allora ti lasciamo. Bene, grazie per questo spazio, veramente. Grazie a te. È stato interessante e piacevole. Grazie. E poi magari tornerai anche a aggiornarci su come andrà questo ricorso. Sì, certo, se ci sono sviluppi, quello che ci sarà ve lo farò sapere, certamente. Bene. Grazie ancora. A te. E noi? E noi? Che famo? Mandiamo la rubrichetta? Dai, allora abbiamo. Sì, si può mandare una rubrichetta? Un ritorno. Un ritorno. Un ritorno. Un ritorno dopo un po' di tempo, in realtà, di mancanze anche proprio della, di FAP in generale. Sì, esatto. Siamo torna il buon Joao. Torna il buon Joao in differita, purtroppo. Con una storia, direi. Dragosa. Dragosa. E lascerei anche i microfoni aperti, così possiamo interloquire. Dai, con lui, certo. Anche se non è qui con noi. Eh sì, dai. E adesso... Ma è nel nostro cuore. Sigla! Dopotutto. Domani. Una bella bestia. Spessore, vero? La bella, in assoluto. Ciao a tutti, amici di Fuoco alle Polveri. Ciao, caro. Qui Joao e oggi una nuova rubrica sugli animali. Oggi parliamo del varano, in particolare del varano di Comodo, detto anche drago di Comodo. Ne parliamo perché è uno dei nemici naturali del nostro regista Glandes Lago. Eccolo! Invece. Oh. Grazie. Il drago di Comodo, o varano di Comodo, meglio, è un rettile dell'ordine degli squamati, della famiglia dei varanidi, del genere Varanus e della specie, in questo caso, del varano di Comodo. Esistono anche molti altri, diverse altre specie di Varanus e sono diffuse in tutta l'Africa, in tutto il Medio Oriente e in buona parte dell'Asia. Il varano, intanto il nome varano deriva dall'arabo waral, che vuol dire guardiano. Sembra che questo nome derivi dal fatto che il varano, per scrutare l'orizzonte, per vedere se ci sono dei problemi all'orizzonte, si erge sulle zampe posteriori appoggiandosi alla grande coda, così da poter stare in posizione retta per diversi minuti e capire bene cosa succede all'orizzonte. Oggi noi parliamo di una specie in particolare di varano, che è il varano di Comodo. Eccala. Che è anche un po' il più famoso, il più bello. Perché si chiama varano di Comodo? Perché si trova principalmente nelle isole di Comodo. Dove in realtà si trovano anche nelle isole di Flores, Rinca e altre isole adiacenti, che sono in Indonesia. Perché si trovano soltanto qui questi animali? Non sono nati su un'isola e cresciuti su un'isola da sempre, ma bensì alcuni resti fossili sono stati trovati anche in Australia. E sembra, la teoria più accreditata è che dopo il Pleistocene questi animali si spostavano, quando c'è stato un periodo nel Pleistocene di grande abbassamento delle acque, questi animali si spostavano, a un certo punto le acque si sono rialzate e queste bestie si sono ritrovate su queste isole e lì hanno proliferato e negli ultimi circa 1,5-2 milioni di anni sono state lì. Il varano di Comodo è enorme, poi parleremo anche delle sue dimensioni, e è un esempio di animale di gigantismo insulare, si chiama, ed è un fenomeno biologico che permette a una specie, in particolare specie dominanti, di crescere a dismisura, diciamo, nel senso crescere fino a diventare veramente degli animali enormi, tanto che non servirebbe essere così grandi, ma è successo questo nella storia dell'evoluzione, soprattutto su delle isole in cui un animale non aveva predatori, nel senso non era in pericolo di essere cacciato e sbranato, e quindi la sua statura, la sua stazza aumentava sempre. Questo qui è il caso del varano di Comodo, che è uno dei pochissimi animali che presentano questo fenomeno ancora non estinti, ancora vivi in natura. Infatti con l'arrivo dell'uomo, il gigantismo insulare, che è una cosa abbastanza particolare, se si va a andare a vedere su internet un po' come funziona, quali erano gli animali, sono divertenti, sono tutti estinti, sono tutti divertenti come tutti gli animali estinti. Insomma, il varano di Comodo è rimasto uno dei pochi giganti, diciamo, che abitano il nostro mondo. Il varano di Comodo infatti raggiunge circa 3 metri, può raggiungere fino ai 3 metri di lunghezza, compresa la coda, e può arrivare a pesare tra i 70 e i 100 kg. Sono state trovate animali di 3 metri e mezzo che pesavano 150 kg all'incirca, quindi, insomma. E presenta una bocca molto grande, con circa 60 denti sovrapposti. Il abita in zone calde e secche, principalmente appunto su queste isole che sono calde e secche. Poi si sposta all'interno delle isole che presentano vari tipi di paesaggi, ci sono le zone un pochino più aride, le zone vicine ai fiumi, la zona vicina al mare che è più umida, e a seconda del momento della giornata si sposta. Vive principalmente di giorno, quindi caccia di giorno, e si accoppia di giorno, va a giro di giorno, di notte tendenzialmente dorme. Corre, arriva a fare degli scatti fino a 20 km all'ora, quindi è un animale molto veloce, nonostante la stazza, e riesce addirittura ad arrampicarsi sugli alberi grazie alle lunghissime unghie. Tutto, gli manca di volare. Sia anteriori che posteriori. Dorme, si nasconde e partorisce, le femmine partoriscono le uova in delle buche fatte nel terreno, soprattutto nel terreno sabbioso, vicino al mare, che anche sempre quelle con le unghie riescono a scavare delle grosse buche dove poi si rintanano. Sono carnivori, sono assolutamente carnivori e si nutrono principalmente di carcasse. Di carcasse che riescono a sentire fino a 10 km di distanza, quindi con l'olfatto riescono a sentire odore di cadavere, che è un odore abbastanza forte, fino a 10 km di distanza. Poi si nutrono anche di altri animali, sia delle uova degli animali, sia di uccelli, poi scimmie, cinghiali, cervi, cavalli, in passato forse anche di piccoli elefanti. È una teoria di un biologo evoluzionista che è Jared Diamond, che sostiene che appunto questo gigantismo, quindi questa enorme stazza, che poi è veramente grande rispetto agli altri varani sparsi per il mondo, fosse dovuta a un iniziale, quindi nel Pleistocene, un iniziale caccia all'elefante. Divora le proprie prede a pezzi molto grandi o addirittura intere, molto spesso intere, cioè se trova una capra tendenzialmente il varano se la ingolla. Bestiaccio. Hanno infatti poi dei problemi di digestione, perché non è facile digerire una capra intera, poi con tutte le corna, con tutto schifo, e tra l'altro non hanno papille gustative, quindi tendenzialmente mangia carogne, non hanno gusto, quindi un canguro piuttosto che una capra, piuttosto che un uccellaccio è uguale, cambia la quantità, e quello è l'importante. Hanno questa digestione molto lenta, alcuni esemplari infatti tendenzialmente dopo aver mangiato si vanno a piazzare al sole e stanno lì qualche giorno finché non hanno digerito tutto la faccenda. Addirittura alcuni esemplari molto grandi mangiano circa 12-15 volte l'anno. È particolare perché è poco, mangiano tipo una volta al mese, però mangiano talmente tanto per la volta al mese che gli basta. Hanno sensi molto sviluppati, come dicevamo, soprattutto l'olfatto è veramente molto sviluppato, addirittura riesce appunto a sentire le prede molto lontano. Da cosa è dato l'olfatto ai rettili? Attenzione, da cosa è dato l'olfatto ai rettili? Chi lo sa? Lingua. Lingua, lo sa, biforcuta forse, io, è vero. Perché ho guardato. E è dovuta alla lingua. La lingua biforcuta, la lingua in generale nei rettili è l'organo olfattivo. Il naso è praticamente tuttologo tuo. L'organo olfattivo è la lingua, che è molto sviluppato. Tra l'altro, dopo aver mangiato, per esempio, una capra, il varano di Comodo vomita malamente tutte le corna, pelo, zampe, tutto, ma le parti dure, che non sarebbe indigeribile anche per un varano di Comodo. E poi si strofina il muso sulla sabbia e tendenzialmente cambia posto dopo aver vomitato. E sembra che, come gli umani, come pochi non tantissimi altri animali, abbia il disgusto verso i propri escrementi. Saggio. Dicevamo della lingua biforcuta. La lingua in generale nei rettili ha una funzione olfattiva. La lingua biforcuta sembra che abbia una capacità di percepire gli odori molto più decisiva rispetto a una lingua normale. Anche la vista comunque è ben sviluppata, perché vedono fino ai 300-400 metri di distanza. Anche vedono anche i colori, mentre di notte comunque vedono abbastanza male, cosa che spiega anche il fatto che di notte tendenzialmente poi stanno a dormire. Si accoppiano tra maggio ed agosto, maggio ed agosto in estate, prima combattono gli altri maschi con cui hanno delle feroci combattimenti, anche lì appoggiandosi spesso sulle zampe posteriori, sulla coda, per poi provarsi a dentare. Spesso il maschio che poi domina questa battaglia s'acchiappa alle femmine, spesso uccide anche il proprio rivale e spesso se lo mangia anche. E dai, il cannibalismo è molto sviluppato tra i draghi di Komodo, tanto che sono un po' un pericolo per loro stessi, nel senso che si ritrovano su questa isola in cui sono i dominatori assoluti della natura, in cui le prede comunque dopo da mangiare, per forza di cose scarseggiano, si mangiano tra di loro. Insomma, è un animale che non ha nel proprio orizzonte evoluzionistico una sorte sicura, anche se dura da tantissimo tempo e senza trovare mai grosse modificazioni alla propria genetica, quindi in realtà sembra reggere. Quindi sta bene. Modifiche. Calma. Le femmine, appunto, dove essere stata fecondata, depone circa 20 uova a botta nelle buche che scava, e per i 7-8 mesi successivi sta lì a covarle. E poi si schiudono queste uova con grande difficoltà. Pochissimi, pochi esemplari nascono e sopravvivono a una nidiata. E le uova infatti sono molto spesso pasto di altri draghi di Komodo, e frittatina di uova di drago. È complesso farle andare avanti, però attenzione, ci stupiscono questi animali come tutti gli altri animali, perché è stato studiato un fenomeno di partenogenesi, ossia boom, una femmina in cattività nello zoo, non mi ricordo quale zoo americano, a un certo punto va nella buca sua e partorisce questa ventina di uova. Soltanto che questa femmina non aveva mai incontrato nella propria vita un altro maschio della propria specie. Sono quindi si è autofecondata. Si chiama partenogenesi, è un fenomeno biologico che hanno alcuni animali, ossia di riuscire a fecondare le proprie, ad autofecondarsi. E la riproduzione quindi avviene anche senza l'atto sessuale tra maschio e femmina. La femmina che fa questa cosa qui partorisce tendenzialmente soltanto maschi, quindi è comunque un po' begoso, però poi non è che hanno troppi problemi a accoppiarsi tra mamma e figli, quindi la specie riesce ad andare avanti grazie a questo bug di riproduttivo. Comunque è un animale considerato molto pericoloso nel nostro immaginario, è un animale considerato molto feroce, in realtà è un animale che rifugge l'uomo, particolarmente negli ultimi periodi in cui le isole di Komodo e di Flores sono diventate delle oasi dove poter andare a vedere i draghi di Komodo, che si trovano soltanto lì, se ne trovano circa 3-4 mila in tutto il mondo, quindi sono su queste due isole che non sono nemmeno così tanto grandi, quindi le trovi lì o allo zoo, però appunto sono degli animali anche abbastanza a rischio di estinzione, trovandosi soltanto in queste due isole e soprattutto avendo delle difficoltà ad essere a riprodursi in cattività, quindi non... In questi circa 4.000 esemplari che ci sono nel mondo, circa soltanto 300 sono le femmine che possono partorire, quindi comunque il rischio di estinzione esiste per questi animali. È considerato un animale molto, appunto, molto, molto aggressivo, molto spaventoso, anche per grazie ai video che possiamo vedere sui vari National Geographic eccetera eccetera, e non so, soprattutto per quello che ci dice il nostro regista Grande del Lago, che è molto spaventato da questo animale. Sì, è vero, è un animale appunto abbastanza aggressivo, molto carnivoro, che si nutre le proprie prede e le distrugge per mangiarle. È velenoso? Non si è capito ancora. Ci sono delle ghiandole velenifere nella mascella inferiore dell'animale. Non è assolutamente un veleno che uccide, ma è un veleno che anestetizza e blocca tendenzialmente le prede, quindi anche se su questa faccenda della velenosità della, del varano ci sono diverse teorie e non... e non c'è ancora una certezza scientifica su questa cosa qui. Comunque sia, la saliva è estremamente batterica, nel senso che è totalmente piena di batteri, anche perché il drago quando mangia si autoferisce le gengive e quindi si sporcano immediatamente di sangue, e quindi i batteri della preda, dell'animale, è tutta una grande coltivazione batterica. Detto questo, vi lascio alla vostra grazie. Meravigliosa puntata. Ci sentiamo la prossima volta con qualche altra bestia strana dal mondo e vi auguro sicuramente una buona puntata. Ciao a tutti. Ciao. Grazie JP. E adesso sigla. Sigla. E poi domani una bella bestia. Andiamo diretti con un pezzaccio e torniamo fra poco qui su Radio One. Dai, eh. Stay tuned. Che la prima cicca me l'accendo all'alba. Faccio due tiri, sa di Jugoslavia. Esco di casa che ho bisogno d'aria. E cosa vuoi che ti dica? Vengo dal niente, voglio tutto. Ultimo tiro e poi ti giuro che la butto. Milano sottomarino, mirano sotto al mirino e sparano bang. Qui non ci sono più squadre, figli della pizza, lievito madre. Se avevo i soldi mica la facevo una vita da cani randagi. Siamo terroni che mangiano la cotoletta, sì. Quanta saudaci, cantautori in lutto, natura morta, forse risorge. Antonello venditi, manca una T, nessuno se ne accorge. Giambellino, scendo sotto casa, faccio colazione con il ciambellino. Senza avere i soldi del tuo papparino, tiro e faccio i fumetti come Papperino. Per Venite ci guardano storto perché abbiamo facce tipo Sarajevo. Qualcuno si sta armando, ma armando chi? Boh, sarà Diego, musica pop, te la spiego. Lei lo lascia, lui va impara. E voi che ci cascate, mia gara. Vengo da niente, voglio tu. Ti giuro che la butto. La prima cicca me l'accendo all'alba. Faccio due tiri, sa di Jugoslavia. Esco di casa che ho bisogno d'aria. E cosa vuoi che ti dica? Karma, karma, dopo la tempesta. Solo noi sappiamo quanto abbiamo corso. Gianna aveva un coccodrillo sopra la maglietta che paga lo sponsor. Fuori dai confini americani, tentativi per entrare vani. Siamo messi che abbaiamo, insomma siamo messicani. Ti do un OCB così ti calmi e dopo non mi uccidi. Devo fare OCMIN, sì, ma OCMAN che duri 10.000. Le due parole che ho sentito più spesso qui. Sigaret, ascendi. Vengo da niente, voglio tutto. Tiro e poi ti giuro che la butto. E questo era anche un po' un omaggio a loro dei Balcani? Certo, ho messo anche un po' per lui, certo, come no. Per lui? Certo. Per... Ah, scusa, per loro dei Balcani, certo. Ah, sì, di Jugoslavia. Giusto, non ce l'ho pensato. No, sì. Scusami. Canzone da Pischelli qui su Radio Wombat. Ma che vuoi, è arrivato, quello del grande gusto musicale. No, scherzo. Colto. Ma io mi domandavo prima, evidentemente JP ha studiato, quindi lo sa. Si dice com'è che diceva? Comodo. Non commodo. Perché? No, mi sembrava. Se c'è una M è comodo. Se c'è una N è comodo. È una dipende M dove hai messo le accenti, però. Potrebbe essere comodo. Comodo. Drago di comodo. Comunque. Boh, vabbè. chi lo sa. Comunque era molto interessante quello che ci diceva. Sapevo della risposta della, dell'olfatto attraverso la lingua, in realtà non per i draghi, ma per i draghi, ma per i serpenti, bravo. Serpenti che, se non erro, invece non ci vedono una beata mazza, e quindi è una sorta di, come per i pipistrelli gli ultrasuoni, per i serpenti la lingua li guida anche come vista, non avendo una vista granché sviluppata. E quindi sapevo questa risposta, ma niente di che, no? Grandi applausi, ma... Comunque, allora, siamo un po' in conclusione oggi, che facciamo qualcosa di un pochino più breve. Snello. E snello. Ma sempre bello. Ma in vista anche poi della diretta che ci sarà appunto dal Festival della Letteratura Sociale. Esatto. Ora forse verrà Mario a darci anche qualche delucidazione in più. Fra pochino, intanto io vado avanti nel raccontarvi ciò che avverrà il secondo giorno invece del Festival di Letteratura Sociale, che è arrivato alla sua eccolo, perfetto. Vieni qua. C'è, no, c'è il mic e la sedia proprio per te, anche le cuffie. Appunto, stavamo lanciando... Buonasera Mario, ben tornato qua. Ah, ben ritrovati, grazie. Hai bisogno di... questo foglio? No, sono tutto a memoria, Allora, non te lo passo, lo tengo io, così ce l'ho sott'occhio. Cosa volete sapere? Allora, niente, abbiamo detto che, insomma, tra poco, settimana prossima, ci sarà la... ormai sì. La quarta edizione del Festival di Letteratura Sociale, che vi ricordo, cari uombati e uombatesse, che, insomma, sarà in diretta, o almeno le parti più interessanti, e ci saranno anche delle... no, nel senso, il cambio palco è inutile, ma certo, mandarlo in onda, quindi manderemo magari ottima musica, e ci saranno anche delle video interviste che potete trovare nei dépliant che vengono distribuiti, o nei manifesti che già potete trovare in giro per la città. Abbiamo raccontato la prima giornata, che cosa verrà, però possiamo ripercorrerlo, il resto ancora non abbiamo detto. Allora, cosa succede al festival? Allora, un sacco di cose belle. Ora, stavate facendo l'elenco degli appuntamenti? Sì, abbiamo letto un po' gli appuntamenti del primo giorno. Beh, allora proseguo con la lettura a memoria degli appuntamenti del secondo giorno. Anche perché il programma che troverete online sta venendo aggiornato continuamente. Proprio di oggi è una novità che adesso vi racconto. Però, seguendo l'ordine cronologico, sì, il venerdì si apre alle 4 con la presentazione dell'antologia di saggi Se il mondo torna uomo. È un'antologia curata da Lidia Cirillo, a cui hanno partecipato numerose scrittrici, e ognuna affronta temi del femminismo. E ad accompagnare la presentazione ci sarà, parteciperà non una di meno Firenze. Ottimo. Quindi è un bel pacchettino interessante. Alle 5:30 invece la presentazione successiva è il libro intitolato Lo sguardo dello Stato. È un libro di James Scott, che venne presentato dal traduttore e scrittore Stefano Boni, che abbiamo già incontrato per alcune sue pubblicazioni con Eleutera, mi ricordo Homo Comfort di 2 o 3 anni fa. Alle 7 invece abbiamo Vanessa Roghi, che ha pubblicato per la Terza uno splendido libro, uno splendido romanzo, si chiama Piccola città, che affronta i problemi creati dall'eroina in città, nella sua città. Ora mi sfugge, però è un... Vabbè, è un tema comune, direi. Esatto, è una cosa che, fra l'altro, purtroppo, oggi come oggi, va riaffrontata senza nascondersi. Dopo di ciò è lo spazio radio, c'è il salotto radiofonico che introdurrà On the Way to Magadan di Iaz Alinevich e Colors of the Parallel World di Mykola Dziadok. Sono due testi che parlano di esperienze carcerarie, e sarà a presentarli verrà ai microfoni un compagno russo anarchico. Fenomenale. Sì, anche lui è una novità, si è aggiunto ora da ultimo. Così come da proprio oggi è la notizia che avremo dopo l'aperitivo, insomma, all'orario verso le 9, un reading da un libro intitolato Boy Erased, che tratta il tema dell'omofobia. pubblicato da Black Coffee, che è una casa editrice indipendente fiorentina, portata avanti da una coppia, sono veramente dei grandi, ed è, abbiamo ritenuto molto importante inserirlo nel festival, anche se appunto è arrivato così in extremis, perché proprio venerdì 17 è la giornata internazionale contro l'omofobia. Quindi forse ce l'avamo persa questa cosa, è cascata proprio a fagiolo questa pubblicazione recentissima di Black Coffee. Fra l'altro, da questo libro è stato tratto un film molto, insomma, con degli attoroni, ora non so se ha lo stesso titolo, vero? Boy Erased, mi sembra fosse tipo una cosa come Russell Crowe e Nicole Kidman come accidenti attore. Ora forse di una cazzata, ma erano due nomi del genere. Beh, cerchiamolo assolutamente. E questo sarà un reading che sarà introdotto e accompagnato da Edoardo Rialti, scrittore e traduttore che ben conosciamo. Sì. E Silvia Costantino, che cura che lavora, che cura con FQ, nella editrice FQ. Dopo di ciò la serata si conclude con uno spettacolo presentazione di un libro di poesie di Eva Kruschel. Questo libro si intitola Contrabbando di Upupe, e il collettivo Affluenti si occupa dell'allestimento, della performance, delle letture così e quant'altro. E questo un po' il venerdì. Si può dire anche il sabato e la domenica, forse. Può dire anche il sabato e la domenica? Tipo... Bello. Bellissimo, anzi, perché il sabato è una giornata molto, molto intensa. Molto intensa e variegata. Che incomincerà con la presentazione di un libro di fumetti, di, possiamo dire, scarabocchi, possiamo dire legittimamente, visto che si intitola Gli scarabocchi di Michael e Mirko, ovvero ARG, che è edito da Bao Publishing, e che avrete tutti presente gli sketch che girano in rete. Assolutamente. Questi sketch rossi con gli scarabocchi neri. Dai temi esistenziali, più o meno esistenziali. Questo alle 15.30, alle 3.30, proprio sarà l'apertura della giornata, così apriamo con una cosa apparentemente leggera, ma in realtà è molto profonda. Il salto alla presentazione successiva, alle 5, ci sarà il nostro fedelissimo, ormai presente sin dalla prima edizione, Vanni Santoni, che è uscito proprio quest'anno con un suo nuovo romanzo, un suo monumentale romanzo intitolato I fratelli Michelangelo, che sta girando già tantissimo, sta già riscuotendo i successi meritati, possiamo dire, vista anche la grande partecipazione di Vanni alle vicende cittadine, alle vicende dell'autogestione. Si è speso molto anche quando ci fu ricordiamo la polveriera. Ricordiamo, certo. Sì, la minaccia di sgombero in polveriera, fu lui fra i primi a spendersi raccogliere firme in difesa dell'autogestione, e quindi a maggior ragione abbiamo piacere di ospitarlo anche quest'anno. Il terzo appuntamento della giornata di sabato è alle 6 e vedrà un ospite internazionale, perché avremo dall'Olanda, sì, dall'Olanda, buona, Olanda. Dall'Inghilterra, non so perché mi è venuto l'Olanda, Anthony Cartwright, che ha scritto questo Ironstown, Città di Ferro, che è un testo del 2017, ma lo ripresentiamo qua da noi oggi perché sarà appunto ad accompagnarlo Alberto Prunetti, che è il curatore della collana di narrativa Working Class per Allegre. E essendo appunto questo Ironstown un libro, che un romanzo che tratta proprio delle vicende della vita nella Londra industriale e della vita operaia, è stato proprio un connubio questo tra Anthony Cartwright e Alberto Prunetti, veramente, veramente azzeccato. Ma il piatto forte della giornata ancora ad avvenire. Pensa a te. Pensate, perché la cosa più succosa, ma forse di tutto il festival su cui abbiamo voluto concentrarci molto quest'anno, è la tavola rotonda sulla critica letteraria. Perché cosa è successo? Quest'anno c'è stata un'iniziativa dell'Indiscreto, la rivista online che abbiamo conosciuto in varie occasioni. Sull'Indiscreto, proprio Vanni Santoni, il successo Vanni Santoni, ha curato questa iniziativa, questa indagine sulla critica letteraria, coinvolgendo oltre una cinquantina di autori e critici, ponendogli alcune domande sullo stato della critica letteraria e sul suo valore, sulla sua importanza nell'analisi, nel confronto con la società, perché sennò la letteratura è soltanto una cosa, sembra una cosa astratta, certo. Invece e quindi a questa tavola rotonda abbiamo invitato numerosi ospiti. Saranno con noi Alberto Casadei, Gianluigi Simonetti, Raffaello Palumbo Mosca, Francesca Matteoni ed Edoardo Rialti. E quindi ci aspettiamo, insomma, una cosa molto molto interessante. Speriamo che l'orario non sia proibitivo per il pubblico, perché è alle 7:30 l'inizio del tavolo. È di sabato e insomma. Fai un aperitivo sulla critica letteraria. Vuol dire che verranno serviti i commensali mentre ascoltano. Non mi preoccupate, che qualche cosa buon polveriera. Più che qualche cosa, dai, inventerà. Una buona cena. Beh, tavolo molto interessante. Dopo questo tavolo c'è lo spazio radio, e qui ai nostri microfoni avremo ospiti le Edizioni Phoenix, una casa editrice indipendente che abbiamo incontrato quest'anno e che ci racconterà del suo lavoro. Siamo sicuri che ha cose interessanti da dirci, che piena perfettamente in linea con lo spirito del festival. Fighissimo. E la sera invece? La sera si chiude il cerchio. Si chiude il cerchio perché, come si è iniziato con una cosa di aria comica, diciamo, chiudiamo con uno spettacolo di stand-up comedy con uno degli scrittori comici più rivoluzionari, migliori, possiamo dire uno dei migliori scrittori comici del momento, ovvero lo Sgargabonzi, che forse alcuni di voi conosceranno tramite la pagina Facebook, che è l'organo principale attraverso cui trasmette la sua opera. Ci accompagnerà, ci presenterà il suo spettacolo e niente, la giornata si chiude così. Abbiamo voluto dargli questa cornice comica, perché abbiamo pensato che per essere un festival veramente serio non poteva mancare lo sguardo di un comico per mettere a vera critica la realtà in cui ci muoviamo, senza peli sulla lingua, proprio per caso di dirlo. Assolutamente, anzi, il ruolo del comico e del oggigiorno è interessante. Vabbè, poi lo Sgargamonzi è senza peli sulla lingua, effettivamente. Sì. E quindi andiamo a sentire l'ultima giornata. Domenica 19 si conclude la 4 giorni del festival, sempre dalle ore 16. Si parte alle ore 16? No, sempre, perché il giorno prima si parte alle 15:30. No, vabbè, ma sì, insomma, è il venerdì che si parte alle 16, sono confuso. 15:30. Sì, comunque tendenzialmente più o meno è quello l'orario. Cioè no, il 19 sarà alle 16, puntualissimi. La nuova uscita per Tounoué, ovvero Il giorno della nutria. Romanzo di Andrea Zandomeneghi, che abbiamo già conosciuto non ricordo se forse l'anno scorso o due anni fa sul tavolo sul fantasy. Come intervenne vivacemente con interventi molto interessanti, e lo presenterà con il nostro carissimo Edoardo Rialti, osannato giustamente incredibile. E quindi sarà un gran bel incontro. 17:30. A seguire ci saranno ben due autori che presenteranno con Alberto Prunetti i loro libri. Alberto Prunetti, come già detto, è il curatore della collana per Alegre. Questi due libri fanno parte della collana di Alegre di narrativa working class, e sono il primo di Valerio Monteventi, Ruggine, Meccanica e Libertà. E il secondo è il romanzo di Simona Baldanzi, ristampato proprio quest'anno, che si intitola Figlia di una vestaglia blu. Le vestaglie blu sono gli operai delle industrie metalmeccaniche, non so. Cioè, bello, bello, bello. Un'ora e mezzo prevista per questo incontro di bello corposo e interessante, al termine del quale, alle 19, senza un attimo di interruzione, siamo dei maratoneti. Delle macchine. Presentiamo... il libro curato da Silvia De Marco, che si intitola per FQ Ricette di confine, il cibo narrato dalla Palestina occupata. Il titolo dice un po' tutto. A seguire il consueto spazio radiofonico in cui converseremo con il filosofo politico Felice Accame. A seguire, la serata si conclude con uno spettacolo, invece, con un reading monologo a cura di scritto e curato da Riccardo Michelucci, dedicato a Bobby Sands. Si intitola Bobby Sands, un'utopia irlandese. Bobby Sands fu quell'attivista che morì nello sciopero della fame, portato all'estremo per richiedere l'indipendenza irlandese, la liberazione dei prigionieri politici, e ricorreva il 5 maggio, cioè ieri. Ricorreva l'anniversario dalla morte, se non vado errato. 20 sì. anni? Se non sbaglio. 20 anni. E quindi ci è sembrato importante e significativo dedicare una parte la conclusione del festival al ricordo di Bobby Sands. Bellissimo, quindi Riccardo Michelucci farà questo reading, allora. Esatto. E per finire, per festeggiare, per congratularci fra di noi, per ringraziarvi, per ringraziarci, ci sarà il rinomatissimo Piero DJ che ci sollazzerà. Parlerà un po' della sua musica migliore. Ottimo. Non serve aggiungere altro per presentarvelo. Sì, sì, allora, quindi abbiamo ripercorso insieme la 4 giorni, dal 16 al 19 maggio, quindi settimana prossima, dalle ore 15:30 fino alle 11 circa. Alle 11 circa. Negli spazi liberati della polveriera Spazio Comune. Ci sarà la possibilità di mangiare, di bere a prezzi popolari e di assistere a tutte queste fantastiche presentazioni, radiopresentazioni, tavoli, banchini, espositori. Vi ricordiamo che è un festival autoprodotto, autogestito. È autogestito, che quindi sta in piedi solo grazie a chi è interessato a questo festival. Infatti vi ringraziamo sì, ogni certo. anno. Chi parteciperà non dovrà pagare nessun biglietto d'ingresso, perché il festival è gratuito, proprio perché è esatto. finanziato. E ovviamente partecipando contribuisce alla riuscita, contribuisce alle possibilità di autofinanziamento, facendo l'aperitivo con noi e quant'altro. Va bene, ma l'importante è che veniate e basta. Eh sì. E quindi è scaduto il tempo. È scaduto il tempo per noi. È scaduto il tempo per oggi. Quindi vi dobbiamo lasciare, ahimè, ma ci risentiamo lunedì prossimo, sempre sulle frequenze di Radio Wombat. Mi raccomando, se avete voglia, come sempre, di scriverci, posta wombat@enziberia.net oppure sulla pagina Facebook Radio Facebook. Wombat Firenze. E niente, se anche la musica è finita, quindi la musica è finita, quindi è proprio finita. Chiudi tutto, il regista decretato. Basta, no, giustamente. Non ci vuole più ascoltare. Quindi. È finita l'ora, ma era solo per farti sentire un po' a disagio. Ah, grazie. Ci sei riuscito, ottimo. Fatto benissimo. Perfetto. Bene, allora niente, a settimana prossima. Viva Radio Wombat, viva Fuoco alle Polveri. E da Rete Wombat. Bau bau. Bau. Prego, di comodo. Fuoco alle polveri. Fuoco alle polveri. Radio Wombat. Radio Wombat. My dear young man, politics are necessary. Politics are rules imposed upon the people. In this country, rules are not imposed. They are the wish of all free citizens. Travel around a bit, then you'll see how free they are. Yes, but you didn't let me finish. They have every man in a straitjacket, and without a passport, he can't move a toe. But if you'll allow me to... In a free world, they violate the natural rights of every citizen. But you don't let me fully... They have become the weapons of political despots. Yes, but may I... And if you don't think as they think, you're deprived of your passport. Will you allow me to... To leave a country is like breaking out of jail. Yes, and but... to enter a country is like going through the eye of a needle. But am I free to travel? Of course you're free to travel. Only with a passport. Will you allow me to say something? Only with a passport. Do animals need passports? Have you finished? It's in Congress that in this atomic age of speed, we are shut in and shut out by passports. If you'll shut up and let somebody else talk... And free speech, does that exist? No, you've got it all. And free enterprise. We were talking of passports. Today it's all monopoly.